Ad alta voce, Iaia Forte legge Nudi e crudi di Alan Bennett. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Claudia Valeria Letizia. Mr. Ransom aveva la barba lunga, non si era lavato, gli bruciava il posteriore e per colazione aveva bevuto un sorso d'acqua dal rubinetto. Ciò nonostante, per quante suppliche gli rivolgesse la moglie, volle andare eroicamente al lavoro e Mrs. Ransom capì distinto che, anche in quelle circostanze inedite, le sarebbe toccato plaudere alla generosa abnegazione del consorte. Tuttavia, quando rimase sola nell'appartamento così vuoto, sentì un po' la sua mancanza e si mise a gironzolare da una stanza echeggiante all'altra senza saper bene da dove cominciare. Decise di fare una lista della spesa, ma si era dimenticata di non avere nulla per scrivere, perciò fece un salto dal cartolaio a comprare matita e block notes e, arrivata davanti al negozio, si accorse per la prima volta che accanto c'era un caffè. A quanto pareva servivano abbondanti colazioni, anche se col vestito da sera si sentiva un po' fuori luogo tra i tassisti e i fattorini che prevalentemente affollavano il locale. Nessuno le badò. La cameriera la chiamò addirittura Ciccia e, intanto che aspettava l'uovo con la pancetta, i fagioli e il pane fritto, le portò una copia del Mirror. Il Mirror non era un quotidiano che Mrs. Ransom avrebbe letto normalmente, ma neanche l'uovo con la pancetta, i fagioli e il pane fritto era una colazione che normalmente avrebbe fatto, e i resoconti su splendori e miserie della famiglia reale la interessarono a tal punto che, per mangiare e continuare a leggere, appoggiò il giornale alla bottiglia della salsa, scordandosi completamente che in quel caffè era entrata anche per fare la lista della spesa. Senza lista, fece gli acquisti un po' a casaccio. Andò prima da Boots a comprare la carta igienica, i bicchieri e i piatti di carta, ma dimenticò il sapone. E quando si ricordò del sapone e tornò indietro, dimenticò il tè. E quando si ricordò del tè, dimenticò i tovaglioli. A furia di andir vieni, cominciò a sentirsi esausta. Fu al terzo di questi viaggi sempre più esasperanti, adesso si era scordata le posate di plastica, che si avventurò nel negozio di Mr. Hanward. C'era già passata davanti tante volte, perché era sul tragitto fra casa sua e St. John Wood Hyde Street. Si ricordò di quando lo avevano aperto e della merceria che c'era prima, della quale era stata una fedele cliente. La mandava avanti una tale Miss Dorsey, che negli anni le aveva venduto qualche sporadico centrino o rocchetto di filo e con molta più regolarità certi pacchetti di carta marrone contenenti quelli che all'epoca venivano chiamati pannolini. La chiusura del negozio, alla fine degli anni Sessanta, l'aveva lasciata sguarnita e ansiosa, finché un giorno, arrischiandosi a entrare da Timothy White, non aveva scoperto con autentica sorpresa che in quel settore così intimo la tecnologia aveva fatto passi da gigante, mai rispecchiati dalle antiquate scorte di Miss Dorsey, di cui lei, alla fine, era rimasta forse l'unica consumatrice. Mrs. Ransom era una persona all'antica e lo sapeva, ma qui c'entrava anche una punta di snobismo, perché ricevere l'articolo richiesto senza dover dire una parola davanti al sorriso paziente e mesto di Miss Dorsey. «La nostra croce!» mormorava quel sorriso, anziché vederlo tirar giù dai promiscui scaffali di Timothy White, le era sembrato vagamente più signorile. Poco tempo dopo, Timothy White aveva seguito le stesse sorti della Dorsey, pappato in un sol boccone da Boots, che a onor del vero era un pizzico più su di Super Drug, l'altra grande farmacia della zona, che di signorile non aveva proprio niente. Dopo la chiusura della merceria di Miss Dorsey, trovata un pomeriggio riversa sul bancone fulminata da una sincope, i locali rimasero vuoti finché una mattina, andando verso la High Street, Mrs. Ransom notò che al suo posto c'era un alimentare asiatico e che sul marciapiede, dove prima sostava solo qualche rara carrozzina, stavano allineate casse di ortaggi insoliti, ignami, papaie, manghi e via dicendo, più una gran quantità di sacchi diversi, davanti ai quali sembrava assai probabile che i cani di passaggio alzassero la zampa. Dunque, era stato un po' per lealtà nei confronti della Dorsey e un po' perché quel genere di roba non faceva per lei che Mrs. Ransom non aveva messo piede nel negozio di Mr. Ranwar fino a quella mattina, quando, per risparmiarsi l'ennesima puntata nella High Street, si disse che poteva benissimo entrare a chiedere se non avessero del lucido da scarpe. C'erano necessità molto più urgenti e lei sarebbe stata la prima ad ammetterlo, ma il lucido Mr. Ransom teneva in modo particolare. Sebbene fossero passati più di 20 anni dai tempi di Miss Dorsey, non notò grandi cambiamenti. A parte l'introduzione di un congelatore e delle vetrine frigorifero, Mr. Ranwar aveva semplicemente adattato i vecchi arredi alle nuove esigenze. I cassetti riservati in origine al leggiadro strumentario di un'esistenza ricca di tempo libero, uncinetti, tomboli, trine, ospitavano adesso ciapati e naan. Le spezie avevano sostituito cuffiette e scarpini di lana, mentre gli scaffali e i cassettoni che una volta accoglievano busti e maglieria intima erano pieni di riso e ceci. Mrs. Ransom riteneva improbabile che vendessero anche il lucido, ma poi gli indiani usavano scarpe normali. Aveva il dubbio che sul color sangue di bue che cercava, o meglio, che Mr. Ransom esigeva, potessero avere riserve di tipo religioso, ma era talmente stanca che fece un tentativo. Il paffuto e allegro Mr. Ranwar sottopose alla sua gentile attenzione varie scatolette e al momento di pagare le cadde l'occhio su uno spazzolino per le unghie che prima o poi sarebbe venuto buono. I pomodori sembravano belli, come pure quel limone, e vedendo che avevano anche casalinghi, comprò un colino. Gironzolando per il locale, l'altrimenti muta Mrs. Ransom si sorprese a intrattenere il gioviale droghiere sulle circostanze che l'avevano spinta ad acquistare un assortimento così strano. Lui sorrise e scrollò la testa con espressione partecipe, indicandole nel frattempo altri articoli che avrebbe certo dovuto ricomprare e che lui sarebbe stato felice di fornirle. «Quei mascalzoni vi hanno ripulito da cima a fondo. Non vi raccapezzerete più. Le servirà del detersivo per i piatti e una di queste confezioni per fare del WC un ambiente più fragrante». Mrs. Ransom finì per comprare una decina e passa di cose, troppe per portarle da sola. Ma nemmeno di questo c'era da preoccuparsi, perché Mr. Ranwar fece scendere dal piano di sopra il figlioletto. «Speriamo che non abbia dovuto piantare lì il Corano per causa mia», si augurò Mrs. Ransom, che la seguì fino a casa con la sua papalina bianca e la spesa dentro uno scatolone. «Sarà tutto di seconda mano», commentò più tardi Mr. Ransom. «È così che ci guadagnano». Mrs. Ransom non capiva come si potesse vendere un lucido da scarpe di seconda mano, ma evitò di farglielo notare. «Speriamo che facciano le consegne a domicilio», disse invece. «Vorrei dire che accettino le ordinazioni per telefono», la corresse Mr. Ransom. «La consegna a domicilio l'hanno già fatta». «Comunque», ribatté Mrs. Ransom in tono di sfida, «rimane aperto fino alle 10». «Perché può permetterselo», disse Mr. Ransom. «Figurati se quello paga qualcuno. Io mi terrei stretto Marks e Spencer». E lei in generale ubbidì. Ma una volta si fermò al volo e comprò un mango per pranzo e un'altra volta una papaya. Avventure minime, certo, ma pur sempre distacchi, timidi viaggi esplorativi che, conoscendo il marito, preferì tenere per sé. I Ransom avevano pochi amici e invitavano di rado. Mr. Ransom diceva di vedere già abbastanza gente per lavoro. Nelle rare occasioni in cui Mrs. Ransom incontrava qualcuno e provava a descrivere la loro terribile esperienza, rimaneva sorpresa dal fatto che tutti avevano la loro storia di ladri da raccontare. Nessuna vicenda le sembrava mai brutale e scioccante quanto la loro, che francamente avrebbe dovuto sbaragliare quei furtarelli poco eclatanti. Ma non era questione di proporzioni. Gli amici sopportavano il suo racconto solo in quanto inevitabile preludio a loro. Mrs. Ransom domandò al marito se se n'era accorto. «Sì», rispose lui seccamente. Neanche fosse un qualsiasi fatterello di cronaca. Lo era, naturalmente, ma nessun caso aveva mai la stessa compiutezza, la stessa totalità a dir poco epica del loro. Di questo era certo. «Tutto!» disse a Gail, la sua segretaria di vecchia data. «Tutto! Fino all'ultimo spillo!» Gail era una donna alta, dall'aria dolente, cosa normalmente gradita a Mr. Ransom, che mal tollerava quelle che lui chiamava «tante smancerie», leggi la femminilità. Ma se Gail avesse fatto tante smancerie, forse gli avrebbe mostrato un po' di partecipazione. Invece, come gli altri, snocciolò la propria disavventura personale e si dichiarò sorpresa che a lui non fosse accaduto prima, perché quasi tutti quelli che conosceva avevano subito almeno un furto e suo cognato, che faceva il pedicura a Ilford, addirittura due. Una volta gli erano entrati in casa con la macchina mentre stavano guardando la televisione. «Ma lei, piuttosto, stia attento al trauma, che mica prende tutti alla stessa maniera. Pare che la caduta dei capelli sia spesso conseguenza di un furto. A mia sorella, invece, è venuto un eczema tremendo. Comunque, aggiunse Gail, sono sempre uomini». «A fare che?» disse Mr. Ransom. «A svaligiare le case». «Beh, le donne taccheggiano», commentò Mr. Ransom sulla difensiva. «Mai fino a quel punto», ribatté Gail. «Mica ripuliscono tutto il negozio». Senza capire bene come fosse finito dalla parte del torto, Mr. Ransom, indispettito e frustrato, ci riprovò con Mr. Pardew dello studio accanto, ma non ebbe sorte migliore. «Dice ripuliti da cima a fondo? Beh, ringrazi che non eravate in casa. Il mio dentista e sua moglie sono rimasti legati 7 ore e ancora si considerano fortunati perché non c'è stato stupro. Passa montagna, walkie-talkie. Ormai è un business. Fosse per me, li castrerei». Quella sera Mr. Ransom tirò fuori dalla valigia un vocabolario, entrambi nuovi acquisti. Il vocabolario era il suo libro preferito. «Che fai?» gli chiese la moglie. «Cerco l'etimologia di furto». Nel giro di una settimana, Mrs. Ransom si era procurata l'essenziale: due brandine, lenzuola, asciugamani, un tavolo e due sedie pieghevoli. Poi comprò due sacchi di fagioli, come li chiamava lei, benché al negozio avessero un altro nome. Erano poltrone piuttosto diffuse, pareva, anche tra gente che non aveva avuto i ladri si sedeva in terra per scelta. A un certo punto arrivò perfino, contributo di Mr. Ransom, un lettore CD portatile insieme a un'incisione del flauto magico. Far compere l'aveva sempre divertita. Di conseguenza, l'imprescindibile necessità di riattrezzarsi ebbe un risvolto piacevole, anche se l'urgenza era tale da non lasciare grande spazio all'estro. Fino a quel momento, ogni elettrodomestico era stato acquistato personalmente da Mr. Ransom, o su sua precisa indicazione, anche nel caso di un aspirapolvere che lui non passava mai o di una lavastoviglie che riempiva di rado. Tuttavia, date le circostanze, Mrs. Ransom si vide autorizzata a comprare qualunque cosa ritenesse essenziale. Quindi non solo prese un bollitore elettrico, ma si lasciò tentare anche da un forno a microonde, innovazione lungamente avversata dal marito in quanto, a suo giudizio, inutile. La probabilità che molti di questi articoli, per esempio i sacchi di fagioli, sarebbero stati eliminati non appena fosse arrivato il rimborso in favore di qualcosa di più permanente, non attenuava il silenzioso entusiasmo di Mrs. Ransom. E dal momento che, insieme a tutti gli altri documenti, era stata rubata anche la polizza, poteva darsi che il risarcimento tardasse e di conseguenza anche la seconda fase, quella eliminatoria. Nel frattempo conducevano una vita spartana che a Mrs. Ransom non risultava affatto sgradita. «Tiriamo avanti con lo stretto indispensabile», spiegò Mr. Ransom. «Vi hanno davvero lasciato in mutande?» commentò Croucher, il suo assicuratore. «No», disse Mr. Ransom. si sono portati via anche quelle. Ma lei non pensa, gli domandò Krauscher, che possa trattarsi di una specie di scherzo? Me lo chiedono tutti, commentò Mr. Ransom. Evidentemente gli scherzi non sono più quelli di una volta. Credevo che uno scherzo dovesse fare ridere. Che tipo di stereo aveva? Chiese Krauscher. Oh, un impianto all'avanguardia, rispose Mr. Ransom. Il meglio che c'era sul mercato. Devo avere ancora le ricevute? Ah, no, certo che no, dimenticavo. Anche se la dimenticanza era autentica, fu una fortuna che le ricevute fossero state rubate insieme al relativo impianto, perché Mr. Ransom aveva detto una piccola bugia. Il suo impianto stereo non era esattamente all'avanguardia. Ma d'altronde quale impianto può dirsi tale? La riproduzione del suono non è cosa statica. Il perfezionamento è costante e quasi non passa settimana senza che si registri qualche progresso tecnico. Essendo un avido lettore di riviste di hi-fi, Mr. Ransom vedeva spesso la pubblicità di certe innovazioni che avrebbe sognato di integrare nella sua esperienza d'ascolto. E il furto, per quanto sconvolgente, gliene dette l'occasione. Fu dunque nel momento in cui prese coscienza dei potenziali vantaggi della sua sventura che quest'uomo granitico cominciò, seppur con riluttanza, a vedere le cose sotto un'altra luce. Anche Mrs. Ransom vedeva il lato dilettevole della faccenda, ma per lei era normale. All'epoca del matrimonio, i due si erano dotati di tutto ciò che occorreva in una casa come si deve. Avevano un servizio di piatti completo, un servizio da tè con tovaglia e tovaglioli di lino, inoltre i piattini da dessert, coppe per il gelato e ogni genere di vassoi, centrini per il tavolo da toilette, sottocoppe per il tavolino da caffè e centrotavola per la tavola da pranzo, asciugamani grandi e piccoli per gli ospiti e set di spugna coordinati per la vasca e il gabinetto, coltelli da torta, da pesce e altri coltelli vari, nonché delicate palette d'argento e osso di cui Mrs. Ransom non era mai riuscita a stabilire l'esatta funzione. Soprattutto troneggiava una massiccia scatola per posate a più piani, zeppa di coltelli, forchette e cucchiai per 12. I Ransom non invitavano mai 12 persone. I Ransom non invitavano affatto. Gli asciugamani per gli ospiti li usavano di rado, perché di ospiti non ne avevano mai. Si erano portati dietro quell'armamentario per 32 anni di matrimonio e Mrs. Ransom non capiva perché. Adesso si erano sbarazzati di tutto in un colpo solo. Mentre sciacquava nel lavello le loro uniche due tazze, Mrs. Ransom si mise improvvisamente a cantare. «Sarà meglio far conto che sia andato tutto perduto e che non riavrete indietro niente», disse Krauscher. «Forse a qualcuno piaceva l'idea di avere una casa borghese bene arredata e ha scelto la via più breve». Si era fermato sulla porta. «Le farò avere un assegno appena possibile, così potrete cominciare a ricostruirvi una vita. La sua signora comunque sembra averla presa bene». «Sì», rispose Mr. Ransom, «ma non vuol darlo a vedere». «Niente gioielli di valore o simili?» «No, non ha mai avuto una grande passione per quel genere di cose», rispose Mr. Ransom. «Meno male che all'opera si era messa le perle». «Stasera portava una collana», disse Krauscher. «Anche piuttosto vistosa, oserei dire». «Ah, sì?» Mr. Ransom non ci aveva fatto caso. Mentre cenavano seduti al tavolo pieghevole, domandò alla moglie: «La conosco, quella collana?» «No, ti piace? L'ho comprata all'Alimentari». «L'Alimentari?» «Sì, quello dell'indiano. Costava solo 75 penny. Non posso mica mettermi sempre le perle». «Sembra uscita da un uovo di Pasqua». «Secondo me mi sta bene. Ne ho comprate due, l'altra è verde». «Cos'è questa roba?» chiese Mr. Ransom. «Un sedano rapa?» «È una patata dolce. Ti piace?» «Dove l'hai presa?» «Da Marks & Spencer». «Mm, molto buona. Un paio di settimane dopo il furto, ormai tutto datava da quello, allungata sul sacco di fagioli davanti al caminetto elettrico, Mrs. Ransom si contemplò le scarpe di Coltè ormai piuttosto scalcagnate, pensando alla prossima mossa. Quando moriva qualcuno, si disse, era lo stesso. Tante cose da sbrigare all'inizio e poi più nulla. Eppure, proseguendo le sue riflessioni davanti al lavello, le parve che una separazione tanto brusca dai suoi beni terreni comportasse alcuni benefici, benefici che forse non avrebbe osato definire spirituali, ma che, con più disinvoltura, si potevano far rientrare nella categoria delle lezioni salutari. A suo avviso, il fatto che le avessero quasi letteralmente tirato via la moquette da sotto i piedi doveva stimolarle utili pensieri sul modo in cui aveva vissuto fino allora. Un tempo l'avrebbe salvata la guerra o qualche altro sconvolgimento irreparabile. E benché l'accaduto non fosse una catastrofe di quella portata, capiva che stava a lei sfruttarlo al meglio. Sarebbe andata a visitare musei e gallerie d'arte, si disse. Avrebbe studiato la storia di Londra. Oggigiorno ci sono corsi di ogni genere, corsi che lei avrebbe potuto benissimo frequentare anche prima che le rubassero tutto. Ma sembrava fosse stato proprio quel tutto a trattenerla. Ora poteva incominciare. Sprofondata nel sacco di fagioli sul nudo parquet del suo ex salotto, Mrs. Ransom scoprì di non essere infelice. Si disse che questa situazione era più autentica e che d'ora in avanti avrebbero rinunciato al superfluo. Naturalmente, fatti salvi certi comfort. Fu a questo punto che suonò il citofono. «Mi chiamo Fine», disse la voce. «Per il sostegno alle famiglie, presente?» «Noi votiamo conservatore», rispose Mrs. Ransom. «No», disse la voce. «La polizia, presente, il trauma, il furto!» Sapendo che la psicologa arrivava tramite la polizia, Mrs. Ransom si era aspettata un tipo un po' più curato. Ma Mrs. Fine non aveva niente di curato, tranne forse il cognome, del quale peraltro si liberò sulla soglia. «No, no, mi chiami Dusty, mi ci chiamano tutti!» «Ma è il suo nome di battesimo?» le chiese Mrs. Ransom facendola accomodare. «Oppure un soprannome?» «No, io mi chiamo Brenda, però non voglio mettere a disagio nessuno.» Mrs. Ransom non capì bene in che senso. In effetti non sembrava una Brenda, ma non sapeva neanche se avesse una faccia da Dusty, non avendone mai conosciute altre. Era una ragazza abbastanza robusta, che forse saggiamente aveva optato per uno scamiciato anziché un vestito, con sopra un cardigan così lungo e largo che era quasi un abito di per sé, una tasca gonfia di agenda e taccuino e l'altra sformata dal peso del cellulare. Considerato che lavorava per il ministero, Mrs. Ransom pensò che Dusty avesse un'aria piuttosto sciatta. «Lei allora è Mrs. Ransom, Rosemary Ransom?» «Sì.» «E la chiamano così, Rosemary?» «Beh, sì.» «Sì, quando mi chiamano», riflette Mrs. Ransom. «Non è che la chiamano Rose o Rosie?» «No, no.» «Anche il maritino la chiama Rosemary?» «Beh, sì», rispose Mrs. Ransom. «Direi di sì.» E andò a mettere sull'acqua per il tè, consentendo a Dusty di prendere il suo primo appunto. «Domanda: sarà il furto il vero problema?» All'epoca in cui Dusty aveva cominciato a fare sostegno psicologico, le vittime venivano chiamate casi. La consuetudine era scomparsa da tempo. Adesso si chiamavano clienti o addirittura utenti, termini che all'inizio aveva osteggiato perché li trovava antipatici. Ma ormai la definizione di costoro le sembrava irrilevante quanto le loro catastrofi. Le vittime decidono di essere vittime. Furto, aggressioni o incidente stradale che fosse, Ogni sventura era solo il modo in cui certe persone inadeguate si segnalavano alla sua attenzione. E chiunque, avendone l'occasione, è potenzialmente inadeguato. Lo diceva per esperienza, ed era stata l'esperienza a fare di lei una professionista. Presero il tè nel soggiorno e ciascuna sprofondò nel suo sacco, manovra che a questo punto Mrs. Ransom eseguiva con destrezza, mentre Dusty fece una specie di rotolone. Sono nuove?» chiese la ragazza pulendosi il tè dallo scamiciato. «Ieri sono andata da un'altra utente, la sorella di un tizio in coma, che aveva anche lei delle cose così. Allora, Rosemary, vogliamo esaminare il dato di realtà?» Mrs. Ransom non capì, ma esordire con un dubbio le pareva di ostacolo a una conversazione fruttuosa. «La realtà come contrapposta al suo vissuto», avrebbe detto Dusty se Mrs. Ransom avesse formulato la sua domanda, ma lei non la formulò. Mrs. Ransom descrisse le circostanze in cui era avvenuto il furto e la sua gravità. Ma Dusty non restò più colpita di tanto. L'economia in cui vivevano adesso i Ransom, le poltrone a sacco, il tavolo pieghevole, eccetera, le sembrò più che una privazione, un look. Anche se lì c'era più ordine, era lo stesso stile minimalista che aveva adottato a casa sua. «È cambiato rispetto a prima?» chiese. «Oh, avevamo un mucchio di roba!» le rispose Mrs. Ransom. «Avevamo tutto! Era una casa normale!» «Deve farle molto male!» commentò Dusty. «Dove?» domandò Mrs. Ransom. A lei in generale, quello che è successo!» «Ah!» Mrs. Ransom rifletté un istante. Il suo stoicismo era una semplice questione di linguaggio. «Beh, ecco, sì e no, mi ci sto abituando!» «Non si abitui troppo in fretta», le raccomandò Dusty. «Si dia tempo al suo dolore. Avrà pianto, spero». «All'inizio sì», rispose Mrs. Ransom. «Ma mi sono ripresa subito». «Anche Maurice?» «Maurice?» «Suo marito?» «Ah, no, non credo che abbia pianto, sa», aggiunse come se la stesse mettendo a parte di un segreto. «Lui è un uomo!» «No, Rosemary, è una persona! Peccato che non si sia lasciato andare. Secondo gli esperti, se non si dà sfogo al dolore, se ci si tiene tutto dentro, è probabile che prima o poi venga il cancro. Oddio!» disse Mrs. Ransom. «Certo», proseguì Dusty, «per un uomo sfogare il dolore è più difficile che per una donna. Aiuterebbe se ci parlassi un attimino?» «Lei? Con mio marito? No!» si affrettò a rispondere Mrs. Ransom. «Non credo. È molto timido». «Comunque», riprese Dusty, «sono convinta che potrò aiutarvi. O che potremo aiutarci a vicenda». Si sporse verso Mrs. Ransom per prenderle la mano, ma siccome non ci arrivava, si limitò a fare una carezza al saccone. «Pare che ci si senta come violentati», disse Mrs. Ransom. «Sì, tira fuori tutto, Rosemary, tira fuori tutto!» «Io, però, non tanto. Più che altro mi sento sconcertata!» «Palese denegazione!» scrisse Dusty mentre Mrs. Ransom portava via le tazze. Poi aggiunse un punto interrogativo. Accomiatandosi, Dusty suggerì a Mrs. Ransom di vedere quell'esperienza come una curva di apprendimento. Un suo possibile andamento, la curva poteva andare in varie direzioni, era quello di considerare la perdita dei loro averi come una specie di liberazione. «La sindrome dei gigli del campo», la definì Dusty, «della serie. Non accumulate tesori sulla terra». Benché fosse venuto in mente anche a lei, Mrs. Ransom non afferrò subito il concetto, perché parlando dei loro averi, Dusty li chiamò «puro e semplice maquillage», usando un termine che per lei significava il contenuto della sua borsetta, cipria, rossetto e così via, oggetti che aveva ancora. Più tardi, però, ripensandoci, dovette ammettere che raggruppare moquette, tende, mobili, accessori e tutto sotto la definizione di maquillage facilitava effettivamente le cose, ma non era una parola che si sarebbe arrischiata a usare col marito. In verità, quello era un discorso che Dusty faceva senza grande convinzione. Ma Mrs. Ransom non lo aveva detto. E più casi vedeva di quella sindrome, meno ci credeva. C'erano stati, sì, due utenti che le avevano raccontato di un furto doloroso che gli era servito per capire come bisognava vivere. D'allora in poi avrebbero dato meno importanza ai beni materiali, viaggiato leggeri, eccetera, eccetera. 6 mesi dopo era tornata per una visita di controllo e le aveva trovati ingombri di roba come non mai. La gente, aveva concluso Dusty, può fare a meno di tante cose. Il problema è che non riesce a non andare a comprarle.